Quando mi guardi, dimmi cosa vedi, una certezza, un'opportunità. E dimmi se assomiglio a un fiore che forse sboccerà. Sai, non è mica che non son capace di interpretare la realtà. Ma il bicchiere non è mezzo pieno, dov'è finita l'altra metà? Non mi prende. Fuggite per quest'uomo che è disponibile a pensare di poter cambiare, disponibile a pensare di poter giocare, disponibile alla parola magica flessibilità, disponibile a sudarsi una vittoria in questa sporca società. Prova a pensare al domani, che ne sarà dei nostri guai. E troveremo ancora facile non pensarci mai. Ma non sarà sempre così, mi giuro, mi impegnerò. E spero tanto che abbiate ragione e che non scoppierò. E non mi prende. Parlano e nessuno le dà. Sono arrivate da lontano e già fuggite per quest'uomo.